Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21.30 in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine. Ricordo che questa trasmissione viene condotta grazie al contributo dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Oggi appunto diretta, quindi giovedì 5 agosto. Andiamo ora, scusate, 5 settembre, andiamo ora all'ascolto di questa band statunitense, ovvero i Defiance, band che ha per la maggior parte di tutte le loro uscite discografiche è avvenuta negli anni 90, poi la band si è riformata più volte. Comunque noi andiamo ad ascoltarci dal loro album No Future, No Hope, datato 1995, alcuni brani. Defiance. Sì, un saluto a chi ci ascolta. E allora, questa sera volevamo così raccontare, diciamo, la storia di un compagno cileno che non c'è più, che è morto appunto all'inizio di agosto. E raccontando la sua storia, una storia particolare, adesso entreremo in merito, particolare per la sua vicenda, ma anche per il tipo di sensibilità del compagno in questione, e appunto attraverso la sua storia un po' così ragionare sulle lotte, ma anche sulla memoria delle lotte, su come, in che maniera i ribelli e le ribelli, le oppresse e gli oppressi riescono a rielaborare, no, la propria esperienza, le proprie lotte appunto, e senza farsele scippare, diciamo, dal potere, che tende a così inglobarle, fagocitarle e utilizzarle per demonizzare appunto, per demonizzare insomma un po' tutti quelli che non si arrendono allo stato delle cose, e poi per ragionare anche un po' sul carcere, perché questo compagno, beh, dico insomma, questo compagno si chiamava Luciano Pitronello, e ha avuto una lunga esperienza di carcerazione, e ha parlato molto insomma di questa del carcere. Però io volevo iniziare in realtà dando voce a Francisco Solar, un altro compagno anarchico d'azione cileno, che si trova adesso in galera nel dicembre del 2023 è stato condannato a 86 anni di carcere per varie azioni contro banche, centrali del potere e gendarmerie. Lui si trova nel carcere della Gonzalina Rancagua, insieme, cioè non, in un altro carcere è detenuta Monica Caballero, anche lei accusata di complicità con Francisco Solar, è stata condannata a 12 anni di aver fiancheggiato, diciamo, le azioni. Allora, Francisco Solar ha preso parola proprio in occasione di questa settimana di agitazione internazionale contro l'isolamento che c'è stata a fine agosto praticamente, e lui ci dice in maniera sintetica ma delle cose secondo me significative. Lui dice che è importante capire che il potere sta applicando l'isolamento come regime interno al carcere per combattere l'anarchismo d'azione in tutte le diverse parti del mondo, e che utilizza le misure più severe, più dure, che sono previste dal sistema penitenziario, cioè dai vari sistemi penitenziari, proprio per annientare una volta per tutte le idee e le pratiche nemiche di ogni forma di autorità. E ci dice, questa non è una novità, e ci sono stati nella storia tantissimi momenti in cui gli stati hanno deciso di porre fine all'anarchismo, però non ci sono mai riusciti, quindi questo è un dato di fatto, non ci sono mai riusciti. Allora lui dice, Francisco Solar ci dice, sta in noi non solo impedire, far sì che l'autorità non possa arrivare a mettere in pratica questo proposito di annientamento dell'anarchismo, ma sta a noi anche uscirne rafforzati, creando le condizioni e le situazioni che fanno tremare i potenti. E in questo senso, ci dice, la solidarietà rivoluzionaria gioca un ruolo decisivo, nella misura in cui sa che colpendo il potere e generando istanze di lotta autonome, quindi dando una speranza anche della possibilità, della fattibilità di lotta autonome, in questa maniera qua viene rotto proprio anche l'isolamento, cioè questo regime afflittivo ulteriore, diciamo, che viene applicato ai ribelli e alle ribelli all'interno delle carceri. E poi ci dice un'altra cosa importante, cioè dice che la solidarietà rivoluzionaria non vede, non considera il prigioniero come, e la prigioniera come individui inattivi, cioè individui, diciamo, lì chiusi dentro, che si deve appoggiare in maniera incondizionata, in maniera indiscutibile. Ma la solidarietà rivoluzionaria è necessario che veda, consideri i compagni in carcere come facenti parte della lotta, no? E quindi con un ruolo attivo e anche con la possibilità di dire la propria, diciamo, di esprimere le proprie idee anche sulle diverse iniziative che vengono portate avanti. E questo è importante per non appunto mettere i compagni che sono dentro in una stazione di passività. E poi vabbè, poi il comunicato continua così, ringraziando e esprimendo affetto e vicinanza con tutti i solidali fuori dal carcere. E poi appunto Francesco Solar finisce con questo saluto anche lui a Luciano Pitronello. Dice, ne parla come di un compagno guerriero che non zoppicò, che non zoppicò mai, cioè che non abbia mai dei ripensamenti, che in maniera instancabile e ostinata lottò con tutti i mezzi per costruire spazi di libertà e per distruggere l'autorità. E così, queste sono insomma le parole, diciamo, di commiato di Francesco Solar verso Luciano Pitronello, detto anche Tortuga. Intanto ci stiamo ascoltando questa band dalla Russia, esattamente da San Pietroburgo. Loro sono i Comatose, da un loro album datato 2009. Sì, allora parliamo di Tortuga Luciano Pietronello. Siamo in Cile. Beh, brevemente, insomma, il Cile, colpo di stato di Pinochet l'11 settembre del 73, è una delle dittature più feroci, ma anche nel post dittatura il Cile è sempre stato, diciamo, uno stato, diciamo, dove si è sperimentato ad esempio il neoliberismo, e quindi da un lato con una feroce repressione di tipo poliziesco-militare, e quindi un addomesticamento in un certo senso della popolazione e una così assunzione di complicità da parte del potere, della piccola e media borghesia, in questa operazione appunto di schiacciamento. Dall'altro lato, appunto, questo aprire a capitale finanziario in maniera spregiudicata, e quindi una, diciamo, arricchimento dei più ricchi e un lieve miglioramento economico anche nelle classi medie, per cui, insomma, si parlava negli anni anche di boom economico, queste robe qua, di caso atipico, diciamo, per quanto riguarda il Sud America, e paese in cui ci sono stati dei momenti anche di rivolte popolari molto importanti nel 2011 e poi nel 2019, proprio di vere e proprie insurrezioni, che però poi, diciamo, dal punto di vista della dimensione, sono state cooptate da forze istituzionali e quindi depotenziate, insomma, e quindi con tutta una serie di conseguenze, come spesso accade, di trasformismi di vari leader politici che poi si sono piegati in realtà alla ragione di Stato, e quindi per cui troviamo, insomma, vediamo che anche governanti tra virgolette di sinistra hanno portato avanti, come succede poi in tutto il mondo, le stesse politiche repressive neoliberiste e di, ad esempio, sfruttamento e feroce del popolo Mapuche, ad esempio, di spossessamento proprio del popolo Mapuche, che portavano le stesse politiche che erano portate avanti anche dalla destra. Ma a parte questa premessa, giusto per avere un contesto, arriviamo alla vicenda di Tortuga. Allora, questo ragazzo intanto è morto in una circostanza assurda, nel senso che è proprio una circostanza tipica delle società in cui viviamo. Cioè, lui è morto il 9 agosto in seguito a un incidente sul lavoro, e cioè è rimasto folgorato lavorando, probabilmente in un cantiere, non so di preciso. Comunque è entrato in contatto con un cavo elettrico, e quindi questo, in seguito a questo incidente sul lavoro, ha incontrato la morte. Ma Luciano veniva da una sua storia di rivoluzionario particolare. Cioè, nel 2011, poco più che ventenne, aveva collocato un ordigno artigianale nottetempo fuori da una banca a Santiago del Cile, una banca Santander, e in questa azione, appunto, contro il capitale finanziario, è rimasto l'ordigno, insomma, per una ragione fortuita, insomma, gli è esploso tra le mani. Il risultato che ha perso un braccio, gran parte anche dell'altra mano, e ha avuto grossi problemi agli occhi, ustioni in gran parte del corpo, per cui è rimasto tra la vita e la morte per molti mesi, e in un ospedale, insomma, comunque era già stato individuato, diciamo, come autore di questo di questa azione. E dopo, quando, insomma, si è ripreso dal punto di vista è sopravvissuto, diciamo, cioè lui dice: felicemente la bomba non mi ammazzò. E è stato messo dentro, naturalmente, in carcere, e era accusato di terrorismo, perciò si prefigurava una lunghissima detenzione, anche lui in isolamento. Poi racconta, insomma, nelle sue lettere dal carcere, che la polizia penitenziaria lo derideva per le sue condizioni fisiche, per le sue difficoltà, insomma, all'interno, con questo tipo di mutilazioni, di problematiche a vivere all'interno del carcere. Quindi questa maniera di sminuirlo, di così deriderlo, appunto, prenderlo in giro. E parallelamente racconta anche di tutta questa campagna mediatica di demonizzazione, e anche di, contemporaneamente, di ridicolizzazione, no? Come dire che comunque si trattava di un'azione puerile, diciamo, e contemporaneamente, appunto, un'azione di demonizzazione, come di un mostro assassino. Sì, quindi, insomma, questo paradosso di essere sopravvissuto a questa terribile esplosione, e poi di andare a morire facendo un lavoro precario, insomma, nella società del capitale. Sì, una roba veramente tragica. Poi dopo, appunto, lui è stato assolto nel 2012, nel 2011 quindi questa azione viene arrestato, fa un anno di carcere, di isolamento, poi nel 2012 viene assolto dalle accuse di terrorismo e viene condannato comunque a 6 anni di libertà vigilata, quindi esce dal carcere, e probabilmente anche a causa della sua condizione di salute. E poi, insomma, però magari dopo mettiamo ancora un po' di musica e dopo continuiamo a parlare di cosa farà fuori anche dal carcere. Sino come un contatto umano che permetta mi libertà. Voglio mi libertà, perché mentre tu sei espresso, mi incalza la tua visione. Libertà, libertà! Un pueblo libre no necesita de la cárcel, pero la cárcel es que existe y este pueblo no es libre. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Las prisiones simbolizan la esclavitud del mundo, solo fueron construidas para doblegar al pueblo. esa libertad. Ahora volvemos a mal. Un pueblo libre no necesita de la cárcel, pero las cárceles existen y estos pueblos no es libre. Libertad, libertad. A los presos de la UNAM. Libertad, libertad. A los presos, libertad. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band messicana, da un loro, credo, ultimo, a loro uscita discografica avvenuta nel 2001. Loro sono i Desobedienza Civil. Sì, e torniamo quindi a Tortuga e a quel giugno 2011. Allora, mentre si trovava praticamente dentro, un anno dopo questo, un anno dopo la bomba, diciamo che quasi mi è costata la vita, come dice lui, Luciano Pitronello scrive questo comunicato che intitola L'abisso non ci ferma, e dice, vi leggo alcuni pezzi. Alle coscienze ribelli, ai miei compagni e alle mie compagne sparsi nel mondo, è passato poco più di un anno da quando tutto cambiò per me in una fresca alba del primo giugno dello scorso anno, e credo che non esprimermi rispetto a ciò che è successo è fare il gioco del proposito che mi tiene qui prigioniero nell'ospedale del carcere Santiago 1. Inoltre, sarebbe un disonore per me stesso, però soprattutto per voi, miei amati compagni e compagne che si preoccupano per me. Devo ammetterlo, volevo fare un bilancio a un anno da quello che è successo, però non lo manifestai pubblicamente per due motivi. Il primo è perché quel testo era troppo compromettente, e il secondo, il più importante secondo me, perché in quel testo non analizzavo nulla, solo era un insieme di frustrazione, risentimento e odio che esprimevo a vanvera contro tutti, dove maledicevo la sorte che capitò, però ora desidero farlo, mi sento con la lucidità, cioè credo di avere la lucidità di poter consegnare alcune parole che sono sicuro meritano di essere dette. E insomma, quindi lui fa un'analisi un po', racconta della la sua condizione sì, insomma, sanitaria, diciamo, il fatto che la sua condizione sanitaria terribile lo abbia messo in questa difficoltà nell'analizzare la situazione. E poi in questo documento, vabbè, parla della sua riabilitazione, cioè dice che in realtà la sua riabilitazione va abbastanza bene, dice che si scusa se come dice lui ha mostrato i denti, insomma, anche alle compagne e compagni che hanno cercato di stargli vicino, perché appunto era in una situazione di, lui dice, psicosi carceraria, oltre che di distruzione, insomma, sua personale, a causa appunto della sua condizione, sì, fisica, corporea. E, però appunto dice il fatto che le compagne e compagni non mi abbiano mai mollato, cioè che la solidarietà sia sempre stata presente, attiva, non si sia, che le persone non si siano scoraggiate di starmi vicino, ha fatto sì che io sia riuscito a superare questa cosa. E poi fa tutta un'analisi sulla galera, insomma, e su quello che provoca, no? Sulla demotivazione morale, sul fatto che in qualche maniera quasi ti affezioni alla realtà carceraria, che questo è il rischio. E dice: a cosa serve sapere quello che succede fuori se sei ancora dentro? Inizi a preoccuparti sempre meno di te stesso, niente importanza per te, diventi sprezzante verso gli altri e l'ambiente. Gli sforzi degli altri per tirarti fuori un sorriso, inizi a valorizzarli, ad apprezzarli sempre meno, perché loro non stanno vivendo il tuo incubo. Ne consegue che perdi la paura di qualsiasi cosa, cioè non hai più paura di nulla, perché hai perso già tutto e sei nel fondo dell'abisso, hai toccato il fondo dell'abisso, ti sei rovinato la vita, diventi ostile e aggressivo. E cercando con ciò, cioè con questo atteggiamento, che tutto accada al più presto, cioè che le guardie ti battano, ti bastonino per gli insulti che gli lanci ogni giorno, e che se sei fortunato le stesse guardie vadano oltre, decidano di andare oltre e ti ammazzino, per finalmente riposarti dalla sofferenza mentale che comporta, insomma, l'isolamento e lo stare reclusi. E ecco, insomma, quindi secondo me è importante questo documento, poi metteremo nel blog anche così il riferimento, se volete andare a leggervelo. Bon, è in spagnolo, ma è abbastanza facilmente, insomma, traducibile, perché appunto Tortuga fa questa analisi del carcere, analisi della sua della sua condizione, anche in maniera molto generosa, perché non è facile parlare, no, magari anche di questa condizione sua esistenziale, e quindi fa un'autocritica in questo senso. Nello stesso tempo ricordiamo che non lui non durante il processo non si rifiuterà di fare qualsiasi tipo di comunicazione, di informazione su qualsiasi potenziale, diciamo, compagno in questa azione, e non prenderà mai parola, quindi rifiuterà in qualche maniera la giustizia, insomma, il tribunale, e quindi non prenderà parola per difendersi anche, e rivendicherà, diciamo, la sua azione. E questo, ecco, una cosa che è una roba che a me ha colpito, che quando appunto lui è stato ha subito, insomma, questa esplosione, era in condizioni chiaramente malissimo, insomma, e un tassista che passava per la strada in quel momento ha assistito all'esplosione e si è fermato per soccorrerlo istintivamente, insomma, sì, ha fatto questo. E poi dopo, questo tassista chiaramente era testimone però anche dell'esplosione, quindi è stato chiamato in tribunale a testimoniare contro di lui. Però vabbè, lui è andato lì, ha detto quello che, insomma, che ha visto, cioè l'esplosione, e Tortuga è intervenuto, diciamo, ha preso parola in udienza per ringraziare questa persona, perché lo aveva aiutato, quindi perché aveva fatto sì, gli aveva permesso che di vivere, insomma, di continuare a vivere. Per dire che a me, io sono rimasta colpita perché secondo me dà l'idea anche del tipo

l'ho penetrato a fondo. Li conoscete voi, i vostri compagni? Sì, li conosco, io son dell'anarchia. Casario fa il fornaio e non la spia. Sì, allora abbiamo messo questo canto perché Luciano Pitronello Tortuga, quando poi è uscito dalla galera, è stato tra gli animatori di questa biblioteca antiautoritaria intitolata proprio a Sante Geronimo Caserio. E, appunto, questa biblioteca, centro di documentazione, insomma, che è andata avanti per un po' di anni e, in vari spazi occupati, tra cui anche, diciamo, in un centro autogestito dove Tortuga stesso viveva. E appunto perché questo compagno aveva questa passione anche per il diffondere le idee anarchiche sì, la cultura anarchica fatta dagli anarchici stessi e diffonderla appunto nei posti frequentati dalla gioventù. Insomma, ci sono tutti questi racconti di appunto concerti punk e situazioni di strada in cui appunto lui si presentava con questo banchetto di libri, opuscoli, adesivi, eccetera eccetera. Però questo collegamento, insomma, con Sante Caserio non è un collegamento così casuale, no? Non è solo l'intestazione di una biblioteca a una figura di rivoluzionario, ma ci sono delle affinità. Anche Sante Caserio viene sempre descritto, anche Pietro Gori, per dire, lo descrive come una persona mite, gentile con gli altri, altruista e non per questo meno determinata nelle sue azioni rivoluzionarie, appunto. Due parole su chi era Sante Caserio: veniva da una famiglia povera di Motta Visconti, un paese in provincia di Milano. Era nato l'8 settembre del 1873 nella sua famiglia, intanto era chiamato Sante Geronimo Caserio, anche Geronimo, in quanto i genitori avevano omaggiato in questa maniera il capo indiano, insomma, il capo Apache. Il padre aveva avuto problemi con la giustizia per via di contrabbando, insomma, di lavoro, di robe di contrabbando, ed aveva subito delle finte fucilazioni dai militari, e quindi che l'avevano catturato come contrabbandiere. In seguito a questo, per lo shock, gli erano venute delle crisi epilettiche molto gravi, insomma, che non l'avevano più abbandonato durante la vita, e poi muore precocemente di pellagra. Sante era, mi pare, il settimo di otto figli, comunque aveva, insomma, tantissimi fratelli, e quindi insomma, decide di dare una mano economicamente alla famiglia, e quindi va alla madre, insomma, alla quale è molto legato, e quindi va in giro per lavoro, a cercare lavoro, e fa il fornaio. Infatti anche nello stornello che abbiamo sentito prima, appunto, viene detto, ma fa anche altre cose, e ha questa sua, insomma, traccia, diciamo, così, questo suo comportamento, questa sua sì, personalità, non mi vengono altre parole, forse non è la parola più giusta, comunque, per dire, è anche disertore, in quanto si rifiuta di andare di prendere le armi, e va addirittura e viene anche carcerato, insomma, in varie situazioni. va a dare volantini ai militari, praticamente, cioè invitandoli alla diserzione, per dire, fa roba di questo tipo, e poi dona ciò che non ha, cioè praticamente va a regalare pane e opuscoli rivoluzionari ai disoccupati, per dire, quindi fa roba di questo tipo, no? Sì, molto forti, insomma, molto significative. E insomma, tra nelle varie vicissitudini si trasferisce in Francia, sempre per motivi di lavoro. Era già, insomma, aveva già con i pochi soldi che guadagnava, acquistava appunto letture per approfondire il suo pensiero, la sua spinta anarchica. E a un certo punto, insomma, nel 1894 decide di colpire il presidente della Repubblica francese, che era Carnot, e con questo proposito dopo il lavoro, insomma, si licenzia dal lavoro, praticamente lascia il lavoro e raggiunge Lione, prima con il treno e poi anche a piedi, e dove, insomma, il presidente Carnot appunto doveva partecipare a una prima teatrale, una roba del genere, quindi dove arriva, insomma, con tutto il codazzo, eccetera, ufficiale, e insomma lui riesce a pugnalarlo e poi cerca di fuggire, però non riesce a fuggire perché anche la gente, diciamo, non tutti sono disponibili a farlo scappare, quindi verrà catturato e poi finirà ghigliottinato appunto all'età di 21 anni. E vabbè, ancora un po' di musica e poi continuiamo su Sante. E stiamo ascoltando questa band e loro sono i Desarme. Thank you. cambiado de mentira. Todo es consecuencia de tu ambición. Todo está mal, estamos en un caos. Todo es consecuencia de tu codicia. Vivimos en un mundo rodeado de mentiras. Todo es consecuencia de tu ambición. Quieres el poder, quieres ser el dueño. No te importa nada, bien, no te importa nada. Te importa el dinero, solo quieres dar. Te lo sentí bien, no le importa tú. Todo está mal, estamos en un caos. Todo es consecuencia de tu codicia. Vivimos en un mundo rodeado de mentiras. Todo es consecuencia de tu ambición. Todo está mal, estamos en un caos. Todo es consecuencia de tu codicia. Vivimos en un mundo rodeado de mentiras. Todo es consecuencia de tu ambición. Interrogatorio di Sante Caserio. Vostro padre era malato? No, signore. Voi appartenete ad un'onesta famiglia. Vostra madre, giudicando dalle sue lettere, è una donna di sentimenti elevati. Frequentavate la scuola, ma spesso mancavate. Se avesse avuto maggior istruzione sarebbe stato meglio. A 10 anni eravate garzone di calzolaio, facevate da angelo nelle processioni. I ragazzi non sanno quello che fanno. Voi avete atteso il presidente per assassinarlo? Sì, signore. Vediamo come siete arrivato a questo punto. Fu dopo il processo agli anarchici a Roma nel 1891 che siete diventato anarchico? No. Avete frequentato le conferenze dell'avvocato Gori? Quando Gori venne a Milano, io ero già anarchico. Ma le seguiste le conferenze? Ci andavano tutti e andai anch'io. La vostra famiglia fece il possibile per togliervi dall'anarchia? Voglio bene alla mia famiglia, ma non può sottomettermi al suo volere. La mia famiglia è l'umanità. A Milano facevate parte del gruppo cui apparteneva Ambrogio Mammoli? Anche se lo conoscessi, non lo direi. Non sono un agente di polizia. Nel 1892 foste arrestato mentre facevate propaganda anarchica fra i soldati in un quartiere detto di Porta Vittoria? Sì, signore. Nel 1893 foste disertore? La mia patria e il mondo intero. Voi sapevate che il giorno in cui avete ucciso il presidente era l'anniversario della battaglia di Solferino, nella quale i francesi sparsero il loro sangue in aiuto agli italiani? Il 24 giugno so che è la festa di San Giovanni, patrono del mio paese, e poi tutte le guerre sono guerre civili. L'accusa sostiene che voi abbiate compiuto il delitto premeditatamente. È vero. Voi avete ucciso il presidente perché siete anarchico? Sì. E come tale odiate tutti i capi di Stato? Sì. Una volta diceste pure che sareste andato in Italia ad uccidere il re e il Papa. Il re e il Papa non si possono ammazzare insieme, perché non sono mai insieme. Un soldato vi intese dire in febbraio che sareste andato a Lione a uccidere Carnot. Faccio rilevare che nel mese di febbraio non potevo dire che sarei andato a Lione per suicidare Carnot, perché allora non si poteva sapere che il presidente vi sarebbe andato. Se la verità intera non si può sapere, è però certo che dopo il rifiuto della grazia a Vaillant, Carnot ricevette lettere di minaccia dagli anarchici. Che ne dite? Voi dovete avere dei capi. Nessuno mi comandò, eseguì tutto da me solo. Con quale diritto avete ucciso il presidente? Il diritto naturale lo proibisce, questo lo sapete? Ho ucciso quell'uomo perché era un simbolo, il responsabile di quanto era accaduto giusto l'anno prima, il 24 giugno 1893, a Dailly-Mort, alle Saline vicino a Nîmes. E l'ha ritenuto responsabile anche di non aver concesso la grazia a Vaillant? Assolvere tutti senza nemmeno una condanna è stata un'infamia. È come se i miei connazionali fossero stati uccisi una seconda volta. Vaillant è un'altra questione. Quando i capi di uno Stato condannano, non è per capriccio, ma vi fu prima un giudizio. Voi invece vi siete fatto accusatore, giudice e carnefice nello stesso tempo. Ora stiamo parlando del fatto e non voglio dire perché mi sono vendicato. E i governi che fanno uccidere milioni di individui? Avete 20 anni, siete ben giovane per giudicare la società. Se sono giovane per giudicare la società, lo sono anche i militari che vanno a farsi ammazzare. Sono dunque degli imbecilli? Ma i militari difendono la loro patria. Difendono invece gli interessi degli industriali e dei banchieri, quindi sono degli imbecilli. Signori giurati, non pronuncerò una difesa, ma piuttosto una spiegazione del mio atto. Fin dalla tenera età ho imparato che l'attuale società è organizzata in modo pessimo, tanto che ogni giorno ci sono diversi sventurati che si suicidano, lasciando moglie e figli nella più terribile disperazione. Gli operai a migliaia cercano lavoro senza poterlo trovare. Ci sono famiglie povere che chiedono l'elemosina per mangiare e tremano per il freddo. Esse si trovano nella più grande miseria. I più piccoli chiedono da mangiare e le loro povere madri non possono dargliene perché non hanno niente. Tutto quello che era in casa è già stato venduto o scambiato. Tutto quanto possono fare è solo di chiedere l'elemosina e spesso vengono arrestate per vagabondaggio. Ho lasciato la mia terra natale perché mi veniva spesso da piangere nel vedere delle bambine di 8 o 10 anni costrette a lavorare 15 ore al giorno per una paga miserabile di 20 centesimi. Vi sono ragazze di 18-20 anni che lavorano anche 20 ore al giorno per un salario ridicolo. E questa non è solo la sorte dei miei compatrioti, ma di tutti gli operai che sudano tutto il giorno per un boccone di pane, nonostante che il loro lavoro crei molta ricchezza. Gli operai sono costretti a vivere nelle condizioni più miserabili e il loro cibo consiste in un po' di pane, qualche cucchiaiata di riso e dell'acqua. Così, quando arrivano a 30 o 40 anni, sono morti di fatica e vanno a finire i loro giorni negli ospedali. Inoltre, conseguenza di una cattiva alimentazione e del sovraffaticamento, queste tristi creature sono a centinaia divorate dalla pellagra, una malattia che nel mio paese colpisce, come dicono i dottori, quelli che sono malnutriti e conducono una vita fatta di fatiche e privazioni. Io mi sono reso conto che vi sono molte persone che hanno fame e molti bambini che soffrono, mentre il pane e gli abiti abbondano nelle città. Ho visto molte industrie piene di abiti e di prodotti di lana e ho visto anche dei magazzini che traboccano di grano e gran turco, che servirebbero a chi ne ha bisogno. E dall'altro lato ho visto migliaia di persone che non lavorano affatto, che non producono niente e che vivono grazie al lavoro degli altri, che spendono ogni giorno migliaia di franchi per divertirsi, che corrompono le figlie degli operai, che possiedono abitazioni di 40 o 50 stanze, 20 o 30 cavalli, molti servitori, in una parola, tutti i piaceri della vita. Io credo in Dio, ma quando vedo una tale diseguaglianza tra gli uomini, mi rendo conto che non è stato Dio a creare l'uomo, ma l'uomo a creare Dio. E ho scoperto che sono quelli che vogliono proteggere le loro proprietà ad avere interesse a predicare l'esistenza del paradiso e dell'inferno e a mantenere il popolo nell'ignoranza. Poco tempo fa, Veilan ha lanciato una bomba nella Camera dei Deputati per protestare contro l'attuale sistema della società. Non ha ucciso nessuno, solo ferito qualche persona. Ma la giustizia borghese l'ha condannato a morte. E non soddisfatta della condanna dell'uomo colpevole, ha perseguitato gli anarchici e ha arrestato non solo quelli che conoscevano Veilan, ma anche quelli che erano presenti a una pubblica lettura anarchica. Il governo non ha mai pensato alle loro mogli e ai loro figli, non ha pensato che l'uomo detenuto in cella non è l'unico a soffrire, che i piccoli chiedono il pane. La giustizia borghese non si è fatta turbare dal caso di questi innocenti, che non sanno nemmeno che cosa sia la società. Non è colpa loro se il loro padre è in prigione, chiedono solo da mangiare. Il governo viene a frugare nei domicili privati, ad aprire lettere personali, a vietare letture pubbliche e incontri, a praticare l'oppressione più infame contro di noi. Anche oggi centinaia di anarchici sono arrestati solo per aver scritto un articolo in un giornale o espresso una opinione in pubblico. Ebbene, se il governo usa contro di noi i fucili, le catene, le prigioni, dovremmo forse noi, gli anarchici, noi che difendiamo la nostra vita, restare chiusi in casa? No. Al contrario, noi rispondiamo al governo con la dinamite, le bombe, i coltelli, i pugnali. In una parola, noi dobbiamo fare quello che è possibile per distruggere la borghesia e i governi. Signori della giuria, voi siete i rappresentanti della società borghese. Se volete la mia testa, prendetevela, ma non crediate che in questo modo fermerete il movimento anarchico. Fate attenzione, l'uomo raccoglie ciò che semina. sul mar la luna. Sì, niente, quindi questa sera abbiamo così cercato di ricordare questo compagno cileno, Tortuga, sì, compagno che non abbiamo conosciuto personalmente, ma così una delle, un aspetto insomma bello secondo me, interessante, come dire, importante di tutte le compagne e compagni che hanno una tensione così rivoluzionaria, anarchica, è che non è indispensabile aver conosciuto delle persone, dei compagni e delle compagne per sentirsi vicini a loro, insomma. E non è nemmeno importante che appartengano ad altre generazioni, che siano morti e sepolti da centinaio d'anni e più, diciamo che così la tensione anarchica va oltre queste cose e così e va insomma è trasversale, diciamo, e quindi niente, e quindi anche non avendolo conosciuto il nostro saluto è un commiato ugualmente e niente, io vi invito ad andare a leggere appunto nelle annotazioni che poi metteremo sul blog, ad approfondire gli scritti di questo compagno e, perché sono comunque così testimonianze che ci danno forza anche a noi, cioè ci permettono di, come secondo me, di centrarci, ecco, anche nei centrarci da un punto di vista politico esistenziale anche nei momenti che possono essere magari più difficili, più controversi, insomma, perché non è che va sempre tutto bene, no? Però non va sempre anche tutto male. E appunto le testimonianze di questi compagni qua che veramente hanno dato e danno tanto, sì, ci aiuta a non perdere appunto, cioè, il baricentro, qual è la nostra idea, insomma, e come vogliamo cambiare questa società e questa vita. E boh, io vi saluto intanto e alla prossima. Ancora qui in diretta su Zardins Magnetics per questo giovedì 5 settembre 2024, sono le 21:25, come sempre in diretta qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine, in così c'è qualche maniera un nesso con tutti gli argomenti che abbiamo trattato, sono stati trattati nella prima, sì, nel resto della puntata. Abbiamo questo aggiornamento del 4 settembre sull'operazione repressiva contro i scritta Scelera contro i compagni che si occupavano della redazione della stampa del, cioè che supposto è supposta redazione, supposta stampa imputata a questi compagni del quindicinale anarchico internazionalista Bezmotivny, che vado a leggervi. Quindi operazione scripta Scelera, revocate tutte le misure cautelari, l'8 ottobre la prossima udienza del processo di massa. Dopo alcuni mesi senza la pubblicazione di aggiornamenti specifici sull'operazione scripta Scelera, scattata l'8 agosto 2023 contro il quindicinale anarchico internazionalista Bezmotivny, informiamo che tra luglio e agosto sono state revocate tutte le misure cautelari rimanenti nei confronti di 8 inquisiti e inquisite. Ricordiamo brevemente che il PM Manotti della distrettuale, insomma della come si chiama, DDA antiterrorismo di Genova, aveva richiesto 10 arresti in carcere per altrettanti indagati coinvolti nel procedimento, ottenendo dal giudice di indagini preliminari 9 misure cautelari. Gli arresti domiciliari restrittivi per 4 e l'obbligo di dimora con rientro notturno per altri 5, per uno la misura è già cessata il 29 marzo per decorrenza termini. L'operazione ha inoltre visto vari aggravamenti delle misure tra traduzioni in carcere e arresti domiciliari, così come i più recenti attenuamenti in obbligo di dimora e di firma, variamente combinati. Con un provvedimento del 10 luglio, in un caso notificato oltre 10 giorni dopo, il GIP del Tribunale di Genova ha disposto la revoca dell'obbligo di firma per 3 indagati. Uno si trovava all'obbligo di firma 2 giorni a settimana, 2 con la stessa misura però frequenza quotidiana. E successivamente, i primi di agosto, è stato revocato l'obbligo di firma 2 giorni a settimana per un'altra indagata. Queste 4 misure erano state stabilite sostituendo le precedenti sempre dal GIP a maggio, confronta articolo precedente, sì, comunicato precedente. Successivamente, il 22-23 agosto, il giudice Garofalo del Tribunale di Massa ha disposto la revoca dell'obbligo di dimora congiunto all'obbligo di firma a frequenza quotidiana per gli ultimi 4 inquisiti, ancora con le misure. La compagna e i 3 compagni imputati nel processo con giudizio immediato in corso a Massa per gli articoli 414, 270 bis 1 e 278 del codice penale, richiesto dal PM Manotti e iniziato il 9 gennaio scorso. Fino al 22-23 aprile si trovavano i domiciliari restrittivi, confronta anche qui altro comunicato. Qualche parola sull'ultima udienza e sulla prossima. Il 25 giugno era relazionato Ginepro e Casadio della Digos di La Spezia, con il primo che, al pari dell'ispettore superiore Pigoni, nella precedente udienza del 24 maggio, si è dilungato sull'attribuzione agli indagati delle firme o degli pseudonimi impiegati nel giornale, così come delle caselle di posta elettronica, e il secondo che ha consegnato delle relazioni sugli appostamenti svolti in fase di indagine nei pressi del circolo culturale anarchico Gogliardo Fiaschi di Carrara, riferendo anche di un servizio di osservazione per cui la Digos non ha più reperito la relazione. È seguito il controesame da parte degli avvocati e degli imputati. Dopo il rinvio di quella prevista per il 5 luglio, la prossima udienza è fissata per martedì 8 ottobre, ore 15, presso il Tribunale di Massa in piazza De Gasperi. Riportiamo qui di seguito le coordinate del conto per la Cassa di Solidarietà e le mail per organizzare iniziative benefit o ricevere copie dei testi riguardanti Scripta Scelera. Rimandiamo a questi iscritti per delle analisi sull'operazione contro Besmotivni e su come questa sia fondamentalmente un altro capitolo nelle politiche di guerra dello Stato italiano. In particolare segnaliamo che sono disponibili copie del documento Riflessioni scellerate di Gino Vatteroni, che è uno tra questi compagni indagati, depositato nel corso dell'udienza del 24 maggio, recentemente stampato come opuscolo. Ecco, quindi seguono i dati delle carte poste Pay e la mail è la seguente: solidali@scriptascelera.org. Il comunicato si conclude: solidarietà con tutti gli anarchici e rivoluzionari reclusi o confinati con delle misure restrittive, perseveriamo nella lotta contro lo Stato, il capitale e le loro guerre. Non servono grandi commenti, ricordiamo un'iniziativa che è stata svolta anche dalle nostre parti, dove c'era anche qualcuno di noi, più di qualcuno di noi, e in San Giacomo, in Campo San Giacomo a Trieste, circa un anno fa. Anche quell'iniziativa è stata oggetto di accanimenti repressivi, e di cui sicuramente andremo a parlare di nuovo da questi microfoni. Io direi che per il momento questa questione ci fermiamo qua, e un saluto e alla prossima volta. Bene, siamo al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta dalle ore 20 alle 21.30 qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. Oggi 5 settembre, appunto tempi strettissimi. Ricordo i nostri contatti, che sono la posta elettronica: dovete scrivere a liberetutti@autistiche.org, oppure scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che anche potete riascoltare questa trasmissione, ma anche tutte le precedenti, su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Inoltre ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Salutiamo tutti, anche chi ci ascolterà domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Volevo anche ricordare che abbiamo ascoltato i brani, diciamo quelli brani storici di canti anarchici, che erano le versioni ovviamente rifatte recentemente dagli Young Gang e anche dai Rancore, mentre prima abbiamo ascoltato un brano Controluce dei Wretched, datato 1987, ultimo loro 7 pollici, mentre ora ci ascoltiamo Libero e Selvaggio, sempre dei Wretched. Ciao a tutti e al prossimo giovedì.